Allo! Chi è? Tu sei, non sei? Stai scendendo tutto male! Tutto cruciato qui! No, sei anche a basso di radio adesso! Adesso 1, 2, 3, prova! Ma il 30 ha un coso, una tambullana guata! Ora adesso 1, 2, 3, prova, prova, prova! No, no, non sei chiaro! A te! Giovanino, panino, panino, panino, mi senti? Così sento, buonasera, come andiamo? Stavo lì, bene, e tu? Come va? Così, mi stavo un po' pasticciando, ho acceso, sto facendo spallare un po'. Tutto bene per il momento, tutto ok. Ok, ma anch'io mi sono acceso, come non si fa, sono per farlo scaldare. Si è considerato che non c'è più nessuno, ma almeno l'apparecchio lo teniamo, è sempre efficiente. E bisogna io anche se non entro, molte volte faccio una cosa fuori, l'accendo uno all'altro, poi se c'è qualcuno parliamo, se no sta con tutto, pensate che sia sempre acceso ogni tanto, capito? Sta per scaldare. Ti volevo dire, beh, tu l'hai portato a farlo sistemare, quello là? Sì, tutto a posto, infatti. Da molto, sì, che è un giorno, che da più di un mese e mezzo anche, forse anche di più, un po'. Sì, sta qui il Pacifico. E adesso questo momento lo sto usando, sto usando quello, a bassissima potenza, però sta andando. Com'è la modulazione? È bella, bella pulita la modulazione, chiarissima, si vede che forte il cavo là, si sente che è forte, ma ottima comunque come sempre. E adesso una calma, io l'anno nuovo glielo porto io, lo chiamo e faccio soltanto una controllata a questo, con calma, avanti. Ok, ma sì, no, lascia passare un bel po' di tempo, Mario, perché con l'amico ha avuto un incidente, in casa, perché un lampo purtroppo gli ha bruciato tutto, che lascia passare un paio di mesi finché non se ne prende dal malumore, e addirittura gli ha incendiato la casa. Poverino, capito, se l'ho sentito, ma tu non sapevo chi era, guarda. L'ho sentito anche la poco, lo sguardo potente, stavo ascoltando e ho sentito qualcosa, ma non gente di qua, è gente di fuori, figurati, avanti. Non sapevo che era lui, Un lampo maledetto, purtroppo, si è fermato proprio lì, a casa sua, e gli ha bruciato tutto. Ma non solo quello, ho fatto un sacco di danno in casa, paniti su. Mi dispiace, poverino, mi dispiace. Poverino, adesso, poi gira, poi, capita. Oddio, dai. Succede, purtroppo succede, anche quando ci vuole, a rompere la tranquillità delle canarie, che non è possibile, ragazzi, è proprio. Cosa dire in questi casi qua? Non la puoi prendere con nessuno, non la puoi prendere perché purtroppo sono sfortunato queste, sono disgrazie grandi della vita. Mi piace, anche se non ci conosciamo, diciamo, forse sono di vista, ma mi dispiace al 100%. Ma c'è almeno tutto attaccato, io sinceramente da quando ho l'apparecchiatura, da quanti anni ce l'ho, ho sempre avuto un vizio, anche se vado a pranzo, di staccare tutto, i cavetti, stacco tutto, sono scemo io, però io il cavo d'antenna ho sempre staccato, sempre, ho sole, ho lampi e tutto staccato, ma è solo l'apparecchio e basta. poi stavo scemo io, sono fissato, ma non lo so, è la mia cosa, avanti, ma mi ci aveva tutto attaccato. Ma la colpa è a casa, se gli era incendiata la casa, si può immaginare, ha incendiato la casa, a parte forse che ha bruciato apparecchiature anche là, 7-8.000 euro che aveva, eccetera. E però addirittura il danno maggiore che in casa ha fatto roba di 40-50.000 euro di danno, si è bruciato tutto, ho dovuto comprare tutto l'uomo. È stata altre spese che ha detto poverino, quindi che fa poi il cardinato. Io avevo sentito una leggere, ma diciamo da non gente di qua, gente di fuori, e mi ascolto, e sto ascoltando, sempre da i miei colleghi, sempre come i miei colleghi. E sta parlando di questo qua, il fratello, però non ho detto non è più, però non sapevo che era lì, tutto qua. Io va bene, va bene. Ti voglio chiedere, ma l'ufficio è scordinato o no? Sì, era molto. Sta molto, è attivo. È già in possesso della padrona. Per cui, sì, sta lavorando. Cioè, tutto a posto, ma ho finito bellissimo. Bello veramente. Capisci da quelle parti, magari che la macchina ci sono io. Ti ho fatto vedere come venisco. Sì, è tutta la roba tua, l'hai messa dietro, vuol dire? E l'ufficio l'ha fatto diventare risulta davanti o al contrario? Dietro, davanti l'ufficio, all'interno ho ancora le macchine, quando non riesco a togliere, non me l'hanno fastidio, tanto sto vedendo, per quanto riguarda il discorso ufficio va bene, anche così com'è, ma domani sarà tutto l'ufficio. Ma per il momento ci sono ancora tutta la tastatura, non solo le macchine, tutto praticamente, tutto quello che occorre in una famiglia media, cioè, ho sempre tutto, poi Puglia la sera andata, la sera andata poi l'abbiamo regalata, ma quello è un altro discorso. Ma io già sì, no, quella scarnata non lo ricordo, c'è anche quella data che stavamo parlando la qualche giorno fa. No, pensavo che avessi tolto tutto, per quello mi sto chiedendo. E vabbè, un domani si allunga, sono dai fotografia alla roba, intanto penso che non farà, ormai non è fatto nulla sulla roba, magari quando qualcuno sta iniziando a lavorare, di aver fatto un blocco, di aver fatto, e fissa. Sì, non si occupa di niente, sai, c'è qualcuno qui. Non ci sono più nemmeno le vendite di legname, cosa? Però ci sono 380 volte di notturni, no? Per cui è difficile. Però c'è quanta gente l'avrebbe voluto rimanere solo in un garage, se fossero state a due vite. Ma i notturni sono 380, per cui no, non è possibile. In un garage non c'è 380, cioè sono a due vite. Per cui, e poi non, anche volendo la chiedere no, non te la darebbero nemmeno a corrente nel 380 per essere un garage. Il discorso è questo, perciò, e vabbè, pazienza, non ce l'ho sulle spalle adesso, ogni tanto già, se faccio qualche cosa in giro per casa già fanno anche comodo a vedere le macchine ancora. E vabbè, intanto fai, non ti sta chiedendo, poverino, mi hai già... Poi ti fai girare, già va bene, perché non sei una quarantena tua, sì? Sono con la nuova autocostruita, l'antenna autocostruita, il tipo in verticale, pone in verticale autocostruito, tipo canale a pesca, sta funzionando bene. E ce l'ho già più di un anno e mezzo, cosa vuol dire? Non l'ho più tolto, l'abbiamo messo per trovare e controllare le stazionali, è andata bene al primo colpo, non c'è stato bisogno di modificare nulla di nulla, tutto nulla. E così è quello rimasto, nella terrazza ce l'ho, non è tutto è in basso, non è nel posto dove c'era la mano la prima. Però sarebbe stata ancora meglio perché è molto più in alto. Dove c'era la mano, ma era 6 metri più in alto, 19 adesso, se puoi immaginare. Ma prima o poi la porterò, ma adesso ormai siamo in inverno e poi non c'è più nessuna frequenza, per cui non mi interessa più il tanto, la lascio almeno per il momento, almeno che non si visto che diventa di nuovo popolata la frequenza, allora il discorso di far posto l'ha messo dal più che è tutto pronto, devo solo piazzarlo e basta, perché tutta l'applicazione, c'è, tutta la graffa, eccetera, è sempre tutto pronto. No? Sì, io comunque qua già sta all'aeroporto, vabbè, già siamo vicini, sempre 9.25, io a casa sto arrivando. Già va bene, l'avevo lasciata così, l'avevo lasciata, non mi voglio andare, anzi, non bene, benissimo. Infatti, sto facendo bassissimo di segnale, non è che, di segnali non è che ne sono, di cose, di potenza non ne sto usando, è niente, io non uso mai potenza, facendo 7 watt sono la circa, 7 8 watt al circa, scuso. No, ma adesso ormai non c'è nessuno, tanta gente si è orientata nella nuova applicazione. Tu non la conosci con la nuova applicazione Midland, non la conosci. Ma quella sul cellulare stai dicendo? Come sul cellulare, sì. Ah, ho sentito, l'avevo sentito altre volte, l'ho sentito. No, ma per il momento mi interessa. Sto facendo altre cose, sto terminando qualche lavoro a casa, sto terminando e non ho tempo per il momento, Giulio. Ho eliminato tutta la siepe dell'ingresso che avevo, e ho tolto la siepe, ho fatto l'impianto tutto nuovo della luce esterna, ho fatto il muretto, insomma, sto terminando, guarda, ho terminato, mi manca qualche fesseria e basta. Dopo c'ho un po' di calma, mi metto, vediamo a fare qualcosa, dai. Peccato però che la gente ha abbandonato la vecchietta, ha abbandonato il baracchino. Adesso lì si sta trasmettendo a livello mondiale, con tutto il mondo, nella modalità gruppi, ma c'è anche la modalità canalizzata, che tante volte ci sentiamo lì, ci sentiamo sul canale 1 del canalizzato e dunque, però certo che non è certo un baracchino è tutta un'altra cosa. Quello è bello, perché anzi, adesso addirittura l'hanno allungata, perché su canalizzazione era fino alla distanza ai 30 km, adesso l'hanno portata a 100 km con un microfono dual mic, per cui si può immaginare, l'hanno portata a 100 km in età, sempre su canalizzata. Mentre invece sulla modalità gruppo, quella lì è a misura infinita, cioè a distanza infinita, no? Non ce ne sono lì, in tutto il mondo puoi arrivare. Infatti tanta gente, sì, io ci ho parlato, però nella versione gruppi non è che mi entusiasma troppo, sono fa fondamento. Ci sono canali che hanno, l'altra volta c'era un canale che aveva 125 persone, tutti in ascolto lì, magari non stavano parlando tutti, però c'era, se lo segnalano, perché c'è la mappa, c'è il radar anche in quel sistema, dunque vedi tutto, vedi. Ecco, registrato, buonasera. Sta bello come ti piace, io Giulio, però baracchino, c'è da fare. Baracchino, ok, avanti il break, buonasera. Buonasera, avanti Giulio, buonasera. Ciao, qua, buonasera. Sì, hai visto, con l'applicazione l'hanno portata a 100 km qua, però con il microfono giù al mic, no? Proprio hanno potenziato il numero dei canali, ne hanno aggiunto altri 5, e questi 5 funzionano su una distanza di 100 km. Ma comunque non lo... Ci vuole sempre il microfono, cosa 119 io, per cui il discorso non è così difficile, ma non è nemmeno semplice. Avanti, mani per Franco. Ciao, sei giù. Baracchino, sta bella come ti piace, non lì, però è tutto un discorso capito. Io, non so, sono appassionato a questo e ciccia. Ma probabilmente qualche giorno venga di nuovo anche a me, è tutto qua. Con calma. Poi, avanti, tra. Baracchino. Uno che c'ha il microfono e come che c'ha sapere ancora che sull'iPhone non ancora si stanno lavorando. E niente, ho visto sulla Google, l'ho visto, e sul cambio se ne ciò. Però non può parlarci, ci vuole il microfono come hai detto tu. Però ti puoi ascoltare. Ascoltare si può, perché io ci stavo ascoltando, perché lo stavano provando, c'è il microfono e io non lo sentivo. Avanti di giù. Sì, a me mi ha arrivato anche il messaggio, mi ha arrivato la notifica, no? Di, avvisandomi che appunto c'è questa altra opportunità adesso. E dunque ho visto, infatti un conto su YouTube, ho anche salvato tutta la spiegazione che ha fatto l'esperto, diciamo, là. E vabbè, comunque. Sì, ma è così, ci vuole il microfono, puoi ascoltare ma non puoi permettere, perché ci vuole il microfono, però no. E vale solo per 5 canali, cioè hanno potenziato ogni canale, no? Da 15 sono diventati 20, per cui, ma io penso che quello serva soprattutto ai camionisti, a polarizzare con le distanze lì. Sarebbe bello anche per lui, ma invece considerato che anche lì poca gente di noi sta entrando, non sta entrando nessuno. Non la più grande nessuno qui a casa. Dico gente, sì, ci sono un bel po' di persone che parlano appunto con quella versione lì, con la modalità di gruppo. Però sono sempre le stesse persone comunque, ma si divertono dalle modalità. Ma a me non piace perché c'è troppo affollamento nei canali. Io entro dove ci sono canali per 4, 5 persone, 7 persone, ma pare esagerando 10, ma non ci sono 30 persone, ma cosa entra a fare? Ma non ne vale la pena, non ne vale la pena. Avanti, mi vado. E riprendo, vi saluto perché è arrivato mio cognato con mia cognata. Ok, ciao, vi ho ben sentito, alle prossime, saluto in casa. Ciao Fabio, ben sentito pure a te, saluto in casa. A questo modo, a domani se coincide, bene, avanti giù. Sentiamo, ciao. Ok, ciao Mani. Ciao, avete sentito, dai. Io sono Salvatore, saluto da parte mia. Alle prossime, ciao Mani. Avanti, ciao Mani, non lo facevo un tutto, l'ultima serata. Io così. Ora già diciamo che su canale 4 c'è tutta Italia, c'è un pezzo, però che possiamo parlare solo con le condizioni. Poi se tu guardi sulla cartina, sulla cosa c'è un video a tutti, un video a Sicilia, un video a Calabria, un video a Roma e via, e c'è la gente. E c'è tutta Italia che è nuova. Ormai qui è finito, ma io ho notato che nemmeno sul canale dei camionisti di Sardegna non c'è più nessuno, ma io non ho più sentito nessuno, mi sentivano sempre, e tu andavi almeno sul canale 5 e c'erano sempre i camionisti, adesso non ci sono più, tutti i pariti, forse tutti quanti parlano al cellulare, che ne so, o perlomeno ci saranno anche quelli che hanno ancora un baracchino, se tanto ci sono. Però ho notato una cosa, da quando non c'è più Luigi, Gigi e di Ottava lavorando, tutti i panisti sono i camionisti, forse era lui il trascinatore di tutti i camionisti con il baracchino. Oggi non sento più nessuno, proprio panisti, non io non ci sento solamente. Sono spariti da rete, sono spariti. Tu mi sai, il mestiere che facevo io, come carico, sono carico a carico e c'è via la mente. E a te quanti camion entravano, c'erano la tenda, ma la fine non era vero. E mi dicevo, ah, ebbene, ah, non parla più il baracchino, no, non finiva il baracchino. La tenda c'è, dice. Appunto, è quello che ti sto dicendo, sì, perché il barattino era una cosa personale, a meno che non era un padroncino, che il camion era il suo anche, però in genere quando un'azienda che ha tantissimi come dipendenti, e il dipendente stesso se lo metteva lui, il baracchino, se lo metteva, come fa all'inizio l'ho fatto Gigi di Ottava, per cui no, gli altri non lo so. Ma tanta gente, la maggior parte dei camionisti, il baracchino era di loro proprietà proprio. Adesso un po' perché c'è il discorso che se ti trovano con il microfono in mano la polizia, ti toglie tutta la patente, anche quello ha cercato di, cioè anche quello è un motivo probabile per non sentire, per non parlare più al baracchino, perché se ti trovano oggi con il microfono in mano, ti prendono le punte della patente e uno gli serve per lavorare la patente, no? E non se lo va a fuggire di certo, ci mancherebbe altro. Ah, è così, in ogni modo, questo c'è un'ottimo che la gente ha abbandonato perché non le attribuiva, non ha. Ormai è una cosa che è sorpassata, dai. Adesso la Midland, siccome la Midland è un'azienda che costruisce molte di queste cose, di baracchini eccetera, allora ha pensato di fare questa applicazione, così dice la gente si compra il baracchino, sì, però si compra anche il microfono e parla così a viva voce senza prendere in mano il microfono. Ecco, non sono scemi, hanno fatto una bella invenzione che è bella, perché bisogna riconoscere molto bella. Intanto perché parli con tutto il mondo, secondo perché non perdi quella passione per la radio, che uno ce l'ha, se la tiene e continua a praticarla, mentre invece col baracchino, con il microfono in mano, non va più bene, almeno per quanto riguarda la guida, ci mancherebbe altro. Ma se tu al massimo devi tenere in mano, ovvio, non è che tu parli e ti aggancia, non è un microfono così. No, schiacci il coso, schiacci, è come la viva voce del telefono, schiacci il pulsante perché funziona, la modalità, la viva voce, parli, così, dunque va bene così, no? ti danno anche il congegno per applicarlo al consorzio, è autoreativo, ed è orientabile, appendi il microfono, appendi lì, e questo panino è orientabile anche. Quando tu vuoi parlare, devi schiacciare, ci sono i due pulsanti, no? Schiacci il pulsante per poter parlare, ascolti a parte, se stava più per toccare sul microfono. Ecco come funziona. Grazie. Allora potrebbe andare anche bene la tastiera. Adesso è così, è come tu quando sei al telefono non lo prendi il telefono, non lo tocchi, non stavo vicino, anzi non lo prendi proprio in mano, lo metti da parte, lo puoi mettere anche dentro un cassetto della macchina, oppure dopo che fai che piace, che lo puffi dentro la macchina. Non fate così, io chiamo spesso nella macchina, quando parlo al telefono parlo così, non è che metto col telefono in mano. Diciamo che accendo la rotina, quando metto in macchina accendo il viva voce, accendo e poi ricevo una telefonata, da quello stesso, quando ricevo una telefonata non faccio altro che schiacciare il pulsante e sono già in comunicazione, capito? Oggi tutte le macchine moderne lo stanno facendo con l'applicazione, ma la mia è una cosa comprata a parte, no? È una cosa comprata a parte. È lo stesso microfono, cioè questo microfono che vendono tutta la pubblicità, appena che tu vuoi parlare, cioè solo pulsante, no? Schiaccio quel pulsante si apposta, ce l'hai davanti, perché è attaccato, appeso al cruscotto magari, con un coso adesivo. anche tu puoi parlare quando ti piace. È un box praticamente, no? Quando parli si apre la portante da sola e parte la voce, no? Ho messo l'applicazione al tablet, ma il tablet è quello che usa lì. Sono là, facendo, ci sono, non è tutto questo giusto. È il mio cognito. Quello sì. Sì, per certo. Poi, vabbè, quando sta per meglio anche il calmo, che per quando lo puoi mettere di giù nel televisore volendo, ma comunque quello anche il conto. Tanto quando si accada si va bene così. E stavo dicendo, vuoi parlare poi col palacchino diretto? Perché ci sono quelli, perché questo microfono si può applicare sia per il palacchino, se uno ha un palacchino in macchina, oppure direttamente al telefonino. E puoi parlare in un modo o l'altro, ci sono il dispositivo giusto, puoi parlare direttamente col palacchino, piace quando è il palacchino e parlare sempre senza mai prendere il microfono in mano. Oppure vuoi parlare tramite il telefonino, allora piace l'altro distante e così via. Capito? Poi questo microfono si illumina tutto attorno, c'è una specie di cosa, come dire, uno tutto attorno, quanto è grande, tutto in giro al microfono, si accende con vari colori, per dire, c'è quel colore rosso, c'è quel colore verde, c'è quel colore bianco e così via, no? A seconda del colore ha la funzione, capito? No, è un grande microfono. Si può? Certo che si può. Avanti. Buonasera. Buonasera Giulio, buonasera. Non mi mettere il nome. Franco, avanti Franco. Ciao autore, buonasera. Niente più sembra. È così facile. E vabbè, c'ho poca memoria stasera. ok, poi stavate parlando di quel microfono lì, però io ho usato le cuffie, cuffie Bluetooth, e funzionano a testa. Se c'hai l'applicazione giusta, sì, è per quello io ho il coso, come si chiama, c'ho il Bluetooth in macchina e sento, però parlare non ci posso parlare, o meglio se parlo, se piace un microfono del telefonino, ma siccome il microfono del telefonino non lo posso guardare, non lo posso usare, è chiaro che non posso mettere in collegamento, con il cuffia Bluetooth è ovvio che va bene. Sì, ma ripeto, a sentire sento comunque, a sentire sento benissimo da quel Bluetooth che ho io, ma non è quello giusto appunto per quel tipo di modalità di trasmissione, ecco quale è. No, quelle che ho io, Bluetooth, funziona tutto da solo, funziona, non devo schiacciare nulla, si accende lui stesso. Ma scusa Tore, ma quell'auricolare che c'hai Bluetooth con una sola? Quello dell'apparecchio che ho qua, dell'Intec, quello lì ho provato e funziona, senza schiacciare nulla. Funziona tutto da solo. È Bluetooth quello lì. Sì, aspetta. Allora, io ho l'auricolare Bluetooth, allora se io lo aggancio quello funziona. Provalo, io l'ho provato e funziona quello che ho io, senza schiacciare nulla. Adesso me lo riprendi giù la tua. Ok. Sì, però vorrei dire che tipo di microfono è quello che hai, insomma, però come faccio io a provarlo? Io non ascolto con l'auricolare, con il cuffia, lo ascolto direttamente dalla macchina, ascolto direttamente dalla prima voce, non dalla cosa, capito? Che microfono è, di cosa stai parlando? dell'Intec 8, ma esiste un mentire che non va giù di più cittino, 898 mi pare, o 899. E beh, cosa c'è qui? Com'è? Funziona? Attaccato al baracchino direttamente oppure no? Attaccato al baracchino rimane. No, attacco tutti e due spinotti, ma ne attacco uno spinotto. Non lo so, perché ha una cucchia che ha doppio spinotto. Bisogna attaccare tutti e due, non lo so, vabbè, non so cosa dire. Oh, io siccome c'ha due attacchi, questo apparato qua c'ha due spinuzzi, però io ne attacco uno solo spinotto e funziona tutto con uno, solo che non ti funziona con il coso e devo schiacciare per forza dall'auricolare che c'ho. Ah, allora siamo sempre da capo, tu non puoi togliere le mani dal volante e ho capito, cioè quella specie di salutonino che hanno le cuffie, quello devi schiacciare. Per forza devo schiacciare, invece se lo attacco all'apparato non c'è bisogno che io schiacci il pulsante, se lo attacco al baracchino non c'è bisogno che lo schiacci io il pulsante, funziona da sé, funziona. Invece qua, siccome per tutte e due non ce li ho, hai capito? Bisogna che mi buschi quell'attacco a due, bisogna che mi buschi. Che già lo vendono, solo che costa 45 euro che subizio. Sì, grazie, allora tanto male comprarsi il microfono tuo originale, no, e poi devi avere le cuffie, devi avere, se no, quello, il problema è quello, che in macchina le cuffie non se le puoi tenere, perché se ti trovano con le cuffie, sono dolori, non puoi tenere le cuffie in macchina. Se ce l'hai di nuovo che va bene, ma se devi usare le cuffie per sentire non va bene. Adesso domani provo quell'altro coso che c'ho, che fa da... che parli e fa da viva voce pure. Però voglio provare a vedere se funziona. Ok, ripeto. E fa da viva voce funziona anche in ascolto, quello che ho io. Però la trasmissione, se voglio parlare, devo sempre schiacciare il telefonino. Però quando accendo il coso, che metto la modalità, o qualsiasi modalità che metto, già da Midland, accendo anche il viva voce nel telefonino e sento tutto lì, per cui va bene, ma sento e basta parlare, non ci posso parlare se piace anche il microfono del telefonino, diversamente no, ecco com'è. Comunque io le ho provate con delle cuffie bluetooth e devi schiacciare per forza dalle cuffie, lo devi schiacciare, no, non ce la fa a parlare automatico, ecco cos'è. Ah, ho capito come fa, vabbè, adesso ti ascolto, allora se te sto dicendo io tanto fare, allora schiacciare, poi ripeto, le cuffie non le puoi tenere in macchina, se no cosa, se ti trovano con le cuffie sono guai. Si prendono tante tutte la patente e poi si fanno una bella musica, perciò non va bene, perché non va bene. Sì, ho capito cosa vuoi dire, è come quando tu ricevi una telefonata, schiacci quello, è pronto e via, e poi vai avanti così. Sì, ho capito come si dice, è la stessa cosa come quello che ho io praticamente, solo che tu ce l'hai delle cuffie, invece io ce l'ho sempre, io ce l'ho attaccato al parasole, poi alla cosa, se no attacco lì, perché c'è la tua bolletta, no? Attacco lì e via. Accendo e basta, non c'è più, non c'è niente. Quando accendo il telefonino, quando squilla, non faccio altro che toccare l'interruttore di quella parte lì e parte. Da quel momento sono anch'io in comunque. È come quando tu ti chiedi una telefonata, no? Poi per rispondere devi premere un bottoncino del telefono, no? Una cosa del genere, tipo dove c'è la forma della cornetta del telefono. Ecco, se anche quello che stai già parlando. È perché io, senza toccare il telefono, c'è il parasole che sono davanti a lui. Sollevo la mano e tocco l'interruttore di quella viva voce e da quel momento sono in collegamento, cioè ho aperto il telefonino. Per cui poi c'è il volume, se lo voglio abbassare, se lo voglio alzare, il volume, perché Bluetooth, ho acceso l'applicazione, scelgo tutta l'applicazione, dal Bluetooth, cioè, però se devi parlare, devi cercare sempre il pochettino alla telefonia. Sempre così ti fa? Allora, quello che ho provato io, il coso, il microfono era auricolare, che ha uno che va inserito in un orecchio, però quello, senza cosa, ci vuole l'applicazione a due spinotti e coso. Solo che a me io l'ho provato la stessa cosa, ma mi fa, ecco cos'è. Però ho provato un paio di cuffie Bluetooth. Al primo momento stava funzionando, ma poi non ha più funzionato. Ecco cos'è, senza toccare nulla. Perché è così, dai. Magari ha funzionato per un attimino. Anche a me l'applicazione, quando abbiamo aggiunto il canale di 100 km, quella lì come l'ho schiacciato e ha fatto tre scatti nella data. Poi non ha anche qui, capito? Ecco, se non piace, però sento quelli che stanno parlando. Quello sì, quelli che stanno parlando già li senti, però se fai come ha fatto a me, tre scatti e a voi non ha più funzionato. vabbè, uno dice, si può pigliare anche sul microfono, se spende quelle 110, 100, 120 o che siano, e si rubiglia. Ma è no, che in coso che devi trattare? Ma guarda, ti dico, se sei stato un camionista, uno che viaggia in macchina, avrei fatto, avrei anche comprato. Ma non me ne posso nulla, è una cosa di niente. Tanto, un pochettino deve essere schiacciare che mi deve fare. Anche se, vabbè, usciranno con il microfono, con cose diverse, come stava dicendo un attacco, era ancora meglio. Però, se vuoi a casa, non mi viene a casa, non mi va a fare. Sono tutti che sono camionisti, non sono comprati. Infatti sono i camionisti. Io ne ho sentito un paio di qua andando verso Cagliari, da qua li ho sentiti e noi che dalla gente ci abbiamo una quindicina di minuti e poi ho chiuso e non ho più ascoltato. Da Sassari Cagliari li ho sentiti. E vabbè, se parlano nell'applicazione, proprio l'applicazione, sì, li senti, fino a Cagliari. Ma se parlano nel canalizzato, no, nel canale no. Quindi 30 km quindi hai finito. Anche se a meno che non parlano con il microfono, parlano quello di 100 km e li senti fino a 100 km, poi non li senti più. No, stavano parlando, ho fatto un gruppetto, mi pare 4 o 5 erano in quel giro lì. Stavano parlando con fuori, stavano parlando. Guarda che c'è un contrattuale che si è trasferito qua a lavorare. Anche quello, normalmente mi si chiama. Anche quello stavo ascoltando io, quello lì era. Stava viaggiando a Cagliari. Si fa Porto Torres, Cagliari, Olbia. Quello lì. La comunità, sai qual è Tore? Non è solamente che lo puoi utilizzare per quell'applicazione, anche quando ricevi una telefonata, se hai quello, puoi rispondere con quello, talmente con quello, capito? Ecco com'è la questione. Adesso lascia perdere, io ce l'ho, Franco ce l'ha lo stesso, diciamo che le macchine moderne, chi ha le macchine moderne oggi ce l'hanno di serie anche quella sistema lì, che puoi rispondere al telefonino, solo che è stato importante. Non devi fare nient'altro, è come accendere un autoradio, no? Tu schiacci l'interruttore, l'autoradio si accende, e quindi funziona quello col microfono lì. Schiacci il pulsante e c'è la modalità che puoi telefonare, guarda. Perché, ripeto, per chi non ha il parla ascolta ancora oggi nella macchina, quella è sempre una comodità, guarda, perché puoi rispondere, parlare e telefonare tramite quello, ecco com'è l'autore. Infatti può fare quello lì, con le macchine che ci sono adesso, sì, con quella costruzione che come lo fare. Vabbè dai, a me mi giocciamelli. Ci sentiamo giù, ciao Franco, alle prossime. Ok, ciao Tom, alle prossime dai. Buonasera, quando la parlai, dai. Stavo parlando con Marino, con Carti, non so se era l'ascolto, comunque. che la tirata, va. Papo, la parte fra. Ehi, ciao Antone. Grazie a voi tutti, ci sentiamo per il prossimo. Ehi, buono. Sì, sì, quella di una volta ce l'ho anche io nella macchina. Non ho solo una cassetta adesso, poi sono tanto tempo che non lo sto usando. Quando sono da lavorare non lo usavo. Ed era come, mira. Il telefono in tasca e quindi di tutto da lì. Quindi, si sente molto bello. Si sente meglio addirittura. Si sente meglio perché è amplificata anche quella del sistema. Io non credo che si sente bene. Non ci sono dubbi. In effetti è così, fra. Rispetto, anch'io ce l'ho. Se per comprarlo perché va bene per le barattine è un costo, ma per comprarlo appositamente per il telefono, sinceramente parlando, non mi serve perché io ce l'ho, anche se è esterno alla macchina, non è di quelli di sedie, è una cosa che ho comprato a parte, per cui il telefono lo utilizzo lo stesso. Ripeto, e lì quando accendo quello, quando accendo la cosa, la versione Midland, sento tutto quanto, sento tutto, non sai bene, forte, fortissimo, che devo abbassare anche il volume, perché oltre al volume del telefono amplifica anche quello, perché anche quello sta impostato per il volume, aumentare oppure abbassare, per cui va bene. Solo che c'è quel problema, per parlare non si può parlare, perché non è adatto, non è adatto appunto per quella versione, per quella modalità di trasmissione. Sì. Ma io non è che ho preso la cosa seria, ho preso una cosa io dal cinese, l'ho preso, e funziona al 100%, funziona. Poi, di solito, prima usavo il bolsito, infatti, sono andato e l'ho preso, sta preso la vera, e l'ho preso subito con l'auricolare Bluetooth. E come l'ho attivata, si è attivata immediatamente, si è attivata. Però che ho provato a schiacciare il tasto che c'è al Bluetooth, ma non aggancia, però la porta. Quando lì aggancia solo se chiami l'ultima chiamata che ti hanno fatto al telefono, ma... ok, ho capito, sì. Sì, però ripeto, ascoltare puoi ascoltare, provaci, tu ti accendi il telefonino, te lo metti sulla modalità gruppo, tanto lì c'è sempre gente, o dove ti fai ti piace, comunque sulla modalità gruppo che c'è sempre gente, e accendi anche quell'apparecchiatura e sì, sono sicurissimo, perché da me funziona così. Però ripeto, per parlare devi schiacciare il telefono, se no non siete da fare, sempre perché non è adatto. È adatto solo esclusivamente per telefonare, per telefonate, che puoi parlare e anche rispondere. Senti bene. Esatto, è così. Sì, lo so. Infatti, sì. Adesso mi ho messo quell'auricolare, l'ho acceso, l'ho lasciato al Bluetooth e... ho messo modalità gruppo e si sentivano perfettamente, si sentivano dall'auricolare. E così si è ascolta, lo avevo che ascoltare là nel quello che c'avevo in macchina. No. Adesso è che non sono in Italia dicendo di giù, non l'avrei trovato. Ok, sì, perché? Ma è così comunque qua. È così, non ci sono dubbi. Vabbè, là. Vuol dire, quando ci sta talmente, ci prendiamo anche il microfono e così abbiamo anche quell'opportunità. Dai, non si sa mai, perché se si incrementa qua il numero di persone, come era una volta, si è considerato che adesso è possibile anche, ad esempio, quando la gente va in macchina, eccetera, che si può parlare. Guardate anche, solo che ancora qui non è a conoscenza di tante persone, magari tanti civili, vecchi civili, nemmeno ne sanno di questa applicazione qua, per cui chi è che lo sa, sono quelle che sono sempre in contatto con la civili, ma tutti quelli che si sono ritirati, guardate che sapendo che esiste questa applicazione, perché il telefonino ce l'hanno tutti, ce l'hanno, e guardate anche che si incrementi il numero di persone, però io ripeto ancora una volta, mi piacerebbe che invece si incrementasse il numero di persone nel baracchino. sei con quello, perché per me è più bello, dai. È un'altra cosa, è un'altra cosa, e io faccio come faccio. Purtroppo questo sta andando e morendo. Poi quando vediamo che è morto, morto, morto, morto, lo prendiamo. Apriamo il cacciatore del letto e mi chiamo tutto questo. Quello sì, no, ma mi dice che sì, che non lasci senza funzionare, che magari si guarda, è per quello che la sera l'accendo, anche se non c'è nessuno, però l'accendo, per accendere un paio d'ore, per le sere lo accendo, proprio per farlo scaldare, almeno quello, se non altro. Io un po' in potenzione, sto un po' tutto, no, però non bloccarsi, perché se no se lo lasci fermo, è capace che si blocca, e allora, sì che lo devi buttare nel cassone della montetta. Tanto perché è un bel apparecchio, tu poi perché è un ottimo apparecchio e funziona molto bene. E la buona cosa qui, siamo messi, vabbè, anche se questo è in seconda mano, per cui no, non è che ho preso un patrimonio, ma in ogni modo, ho sempre fatto del due euro, vedrà, anzi quasi 50 per il capire. E tutto, la tua anche tu quindi. Ma quando ho iniziato a modulare in giro di 3 anni, 3 o 4 anni, mi sembra che adesso non ricordo neanche la data di quando ho iniziato. E mi pare che mi sembra che ne ho preso già 4 o 5 di questi, ne ho comprato, qualcuno per i lunghi, qualcuno per l'affatto, gli altri li ho venduti, e poi ho ripreso altri di loro. E alla fine mi sono tenuto qua, diciamo, sulla parte. E vedo che è perfetto, l'unica radio che in tutto quello che ho comprato è la migliore di tutto. Sì, beh certo, è quello che è riuscito di più, perché se è seconda mano, dai, però per 340 è superiore, senz'altro, a parte il discorso che ha una banda in meno, però ha la contattore antenna e il resto, dico, e anche come apparecchiatura è superiore, è solo lui. Anche se è un apparecchio datato, però è sempre validissimo, quando è funzionante è sempre validissimo. Io per questo avrei stato contento, soprattutto perché l'amico là me l'ha sistemato come si deve e funziona alla perfezione in tutto e per tutto, in tutte le frequenze, in ogni versione, sia in AM, in FM, in SSB, in USB, funziona alla grande in tutto. Speriamo che continui a funzionare. Quando non funziona più, qua dentro, vediamo che ce lo mettiamo veramente la cassetta della montezza. E allora, come ho detto, come fa? Intanto tutti ormai. Però ho notato una cosa, anche se vai a venderlo, è lui che bisogna pagare. Tu, a te ho fatto un giro su internet, cosa in giro, tutti 80, 400, 450, lo stanno vendendo, con 440, anche 500 euro, li stanno là. Andiamo a vendere uno, io e lui gli altri. Sì, ma è così, lo so, sono questo tipo che voglio così, mantengono il prezzo e partono sempre a dipendere dalla condizione, dall'apparecchio. Se un 440 anche 500 euro si può pagare, però bisogna che sia in buonissima condizione. Poi naturalmente ce ne sono che lo prendono anche per 300 euro e no. Questi sono dubbi, però ripeto, bisogna avere sempre le condizioni in cui è messo, questo è il discorso. Quello che ho io è l'uomo, non c'è un graffio, sai cosa vuol dire un graffio? È veramente a posto, eppure funziona anche la grande, ha un'ottima ricezione, nonostante l'antenna non sia adeguata a tutte le frequenze, però rispetto, da volte tante volte mi sintonizzo in 80 metri, ascolto il colesterolo in 80 metri, intorno ai 3600, 3660, una cosa del genere, più o meno. Quasi c'è non si sente, oppure più in là, ancora più in là, si frequenta e c'è sempre qualcuno. Per dire, no, quando funziona parecchio, anche se è un po' vintage, anzi, è una sensazione, no? Più vecchio è più a lungo funziona, è sempre più bello, perché apparecchio nuovo che costa una vacca di là, è chiaro che devi pretendere che funzioni, ma se tu hai un apparecchio che ha 20 anni, può essere questo, 20, 25, non so di preciso, e che funziona una prestazione, che cosa pretendi di più? Poi devi essere solo più che soddisfatto. Io già lo credo, guarda se questi stanno andando ancora col miracolo, come stanno camminando. E veramente la cosa mi ha fatto una bella radio qua. Per me sono micidiali, a parte che è tutto difficile, e a me dice, però sono bella radio, perché escono bene, ricevi bene, e tutto, e hanno una bella potenza. Cosa vuoi di più? Però, vabbè, prima i regolatori questa la chiamavano radio. Dopo che hanno conosciuto le altre radio più sofisticate, poi si chiamano Balanchini. Quello sì. Ma comunque, questo ti fa, né più né meno, ti permette di collegare, come si può collegare un apparecchio anche di 6-7.000 euro per dire, no? E ti colleghi ugualmente, magari queste cose tu io per dire, no? Anzi, perché è di seconda mano, ecco qua il discorso. Ripeto, avere le apparecchiature nuove, perfetto utile, e pagare una banca di soldi, sì, è vero, ti colleghi, ma la soddisfazione dov'è? No, non lo so, secondo me la soddisfazione è quando hai un apparecchio fisso, che ti dà le stesse prestazioni di un uomo e ti dà più soddisfazione perché sai che è vecchio e non dovrebbe più andare bene, invece va bene ugualmente quanto è quello nuovo. Alla faccia dei 7, 8, 9, 10 mila euro magari che costa uno nuovo con sistema molto sofisticato. Per questo, guarda, adesso mi ricordo se venerdì o sabato, in realtà non me lo ricordo, stavo soltanto lì 40 metri e c'erano questi che stavano fermando, è entrato questo qua, lo stupito, è entrato, poi dice che era molto, era un lava, stavano parlando, io ero lì ascoltando, ma c'era quello di Roma, lo sento sempre, lì, e dice, che radio, alla fine ha detto, che radio stai usando? Stai usando un 440 della Chiesa, che sto usando, con l'accordatore automatico, e questo punto, che lui e là, che stava guardando come usciva, se stava andando bene, il microfono, il punto, no? E mi ha fatto, con l'allenatore invece con un barattino, è una radio, no, è un barattino quello là, diceva, io ne ho uno, sai, costa 9.000 euro. E c'è i soldi là dentro, i soldi, quindi io resto con la radio, come la tua, comprano nulla. Io comprano, lui che non riesce a comprarla, ma qua sta venendo già. Certo, magari stanno parlando con quel romanaccio, Massimo si chiama, suppongo sia quello. Sì, lo so. E infatti, te lo sto dicendo, ma se tu hai un apparecchio da 10.000 euro, sei obbligato a credere, a pretendere che funzioni bene, ma se ne hai uno vecchio di 20 anni che gli hai pagato 300 euro e tu hai, ti colleghi quanto lui e forse anche più di lui, mi sembra che la soddisfazione è sempre dalla parte dell'apparecchio vecchio, non dalla parte perché quando spendi 10.000 euro hai tutte le pretese di avere una prestazione come si deve, già non privia. Il bello è averla foto con un apparecchio datato e con due lire, ecco qual è la differenza. Poi il bello è che conoscendo anche con un lineare, quando tu lo vedi a 20-30 anni, la via, tutto granulare. Ma dimmi una cosa, cosa c'hai lì vicino? Quanto vento? Sì, ho attaccato la ventola, l'ho attaccato qua, così, visto che ce l'ho non la uso mai, adesso gli vado a basta con la ventola. L'ho messa così, per farla funzionare, perché era mesi ferma. Ah, infatti c'è la tutto, tutto nuovo, non so cos'hai. No, vabbè, mi aspetta che la tengo. Bene. adesso aspetta, si sta fermando, adesso non credo che la sentirà, no, perlomeno se sente quella dell'alimentatore che è un po' più lontano. Vabbè, non è che la sentirà, già si sente lo stesso, quello che sentì di un rumore quando tu ho chiuso la porta, aprì. E vabbè, hanno niente, ma io non sono più l'alimentatore, quindi... non fa niente rumore quell'alimentatore, è un bel alimentatore, è un cappello, è un bellino, sotto rumore funziona perfettamente. Ok, certo, no, il mio è da 30 ampere, è un switching il mio, è sempre di quelli con la vento là sopra, per cui, però diciamo che ce l'ho 70 cm lontano dalla radio, dai. Perché è in basso nel tavolino, metto la radio su in alto. L'ho messo così, proprio per cercare di allontanarlo, perché quando quello entra in funzione, se no si sente troppo, perché questo microfono è talmente sensibile che alle volte non c'è gente la piano in sotto a casa, no, questo la piano in sotto, che parlano e prende la sensibilità del microfono, riesce a captare quello che si dice al piano di sotto, puoi immaginare? Io, vabbè, all'occasione ne avevo uno da 30 ampere, con tutta la struttura, con il manuale per gli strumenti, tutto. E poi gli ho messo uno di quelli che ho preso dai cinesi, quello switch da 30 ampere, gli ho messo. Perché l'altro è andato da qualcuno, è andato. Allora l'ho trattato e ho messo dentro quella parola. E sto usando i cosi, tutti gli agganci per accendere e spegnere, più cose positive e negative, sto usando i cosi. E ce l'ho dentro la scatola dove c'era l'altro prima. Ok, ho capito, sì. Io ho un computer di quelli da stazione fissa, no? Che ormai è messo da parte già da tanto tempo, perché ormai era lento eccetera eccetera. E lo voglio, non funziona ancora, però lo smonto e ne tolgo l'alimentatore, che c'è l'alimentatore che è tranquillo, quello va benissimo anche per questa radio qua, perché ha tante tensioni, e me lo voglio sfruttare in quel modo, così almeno, che addirittura come potenza io penso che sia anche più di 30 ampere. Come potenza di alimentatore ed è stabilizzato al 100% perché è del computer, è lo stabilizzatore, cioè lo trasformatore che c'è, l'alimentatore che c'è all'interno del computer, lo tolgo, siccome ha varie tensioni, tante tensioni, trovo la tensione giusta, non so come si fa, e me lo posso utilizzare anche per la radio. Ma quello lì non ce la fa, uno solo per mantenersi una radio, non ce la fa, perché sembra così, ma quei modelli vecchi di computer, poi mi si fece molto vecchi, non c'è quella tensione, non c'è tutta quell'amperaggio lì. E dovresti abbinare parecchi attaccati a qui, si possono abbinare, si possono. Non dici, ma un amico l'avevo visto come l'ha fatto. E riabbinato, mi sa che riabbinato per portarci 30-35 ampere, mi sa che mi ha messo il 7-8. Sì, grande, ma no, questo qui è un trasformatore grande, no? dovrebbe bastare, se non basta pazienza, così lo utilizzeremo per il baracchino e non per questa radio qua. Per il baracchino va sicuramente bene, per cui comunque un alimentatore che utilizzo, ho anche il contenitore adatto proprio per poter poi attaccare e fare tutte le prese, magari anche so io a 6 volte, a 3 volte e così via, no? Perché ci sono diverse tensioni e le voglio sfruttare il più possibile, metto diverse prese, se mi occorre per dire una tensione a 6 volte e prendo e utilizzo quella a 6 volte, praticamente diventa un una delle stazioni è andata a laboratorio e va bene, come io mi applico sempre a fare certe cosette elettroniche, allora per me è comodissimo. Insomma, hai visto a Sassari, a chi parla tratto, hai visto dove c'è, ci sono quei lavaggi, dove lavano le macchine, di fronte c'è un negozio di cose, di biancheria, di roba sportiva, là, roba da sport. Dietro, davanti, di fronte a Coso, a, come si chiama, quello che vede i mobili, da, fuggito. Sono quei cinesi ci sono, dietro. E lì ci sono gli alimentatori che parte da 3 ampere fino a 50 ampere. Con la 50 ampere lo stavo guardando e costa 25 euro. Costa. Una cavolata. E noi compriamo, andiamo a comprare un alimentatore pagando 80, 90, 100 euro per un mese. Sì, lo so, se l'aveva preso anche Graziano, mi sembra, uno di quelli, così, e penso che ce l'abbia ancora. Sì, sì, lo so che ci sono questo tipo di alimentatori dei cinesi, già lo so. E vabbè, dai, beh, fa, sono le 8.25, dai, ti lascio, che scendo giù a cenare. Strano che ancora non mi hanno chiamato, ma forse perché mi sentono parlare e stanno... e stanno aspettando, comunque scendo, dai, ciao, fra, a domani, se coincide ci sentiamo, ciao, grazie per la chiacchierata, dai, a domani, ciao, buonanotte. Ok, ciao Giulio, buonanotte, buon tutto, e buona cena quando la farai, ciao.